ho cresciuti, ma è ora di andare. La fine del Nazareno non la vorrei mai fare. Fino a 30 anni no, non lo giuro. Mia madre mi butta fuori a calci in culo. Ma che politica, chi l'ha mai detto? Che a 30 anni devo saper fare il letto. Mamma, papà, sapete, io vi amo. Ed è per questo che dichiaro quel che siamo. E siamo tutti figli di chi ci ha voluto bene così tanto immensamente. Perciò me ne vado e respiro almeno un po'. E siamo tutti figli di chi amato e poi odiato così che neanche in un aborto. Per amare e poi odiar. Quasi nessuno ancora lo ammette che per il loro amore si sentono le manette. Ma basta, me ne vado, sono stanco dei genitori che mi alitano a fianco. Come si stira ancora non so. E letto per 3 settimane non farò. Puzzo di capra almeno da 6 giorni. Meglio che rifaccia i bagagli e ritorni. E siamo tutti vivi.